All'House of Bach si tiene una cena molto speciale, dove si discute delle prossime iniziative e si parla con i nuovi amici che ci vengono a trovare. Da questa tavola passa tutta la buona energia della città. Benvenuti anche a voi alla cena del regino. Ragazzi, bentornati alla cena dei regini. Un'altra grande settimana assieme, settimana che sarà fondamentale. Tu che sei a casa, visita il Bach.it, clicca la cena dei regini o scrivi a cena che c'è il Bach.it per commentare questa puntata. Ma partiamo subito dalle notizie dall'Aus, cosa è successo in questa settimana, di tutto. Ma prima, cosa succederà da adesso a tutto il prossimo mese? Ragazzi, inizia ufficialmente il Workaround 2014, quindi avrò bisogno di molta pazienza, perché per un mese, tu che sei a casa, tu che hai giocato all'Ars, che non hai giocato, che ti piace o che non ti piace, devi scaricare i manuali, provarli, giocarci e scrivermi: Bacco, qua cambierei questa cosa, Bacco, qua vorrei perdere così. Mi raccomando, ragazzi. Risponderò di no a tutti. Tutti? Forse sì. No, no. Tutti possono dare i loro suggerimenti, purché siano critiche costruttive. Assolutamente. Cioè, come c'è scritto nella pagina sul sito ars-rpg.com, dovete indicare cosa vorrete cambiare, con cosa si può cambiare per migliorare. Ragazzi, mi raccomando, dobbiamo scrivere ancora il migliore ars possibile. Un applauso. Vai, vai, vai a scaricare, vai a scaricare. Abbassa questa finestra, apri l'altra, arsrpg.com, scarica i manuali, adesso ritorna qua, perché questa settimana è successa una cosa bellissima: Star Wars Day. In tutto il mondo il 4 maggio si festeggia lo Star Wars Day, cioè questa celebrazione di questo film noto a tutti come Guerre Stellari o Star Wars. La completezza dell'informazione. Esatto. E noi qua all'Aus abbiamo fatto un pomeriggio di proiezioni, di giochi, di stare assieme, e più la sera un concertino dei Maybe I Am, che sono venuti a così donarci un attimo una parentesi di loro musica, ed è stato fantastico. Ci siamo alzati di botto. Abbiamo scoperto. È stato stellare. È stato stellare. Abbiamo scoperto l'anima guerriera di Valeria, cioè, che ha fatto male a tanto. C'è una tassina in me, diciamo. Non era stellare, però. Cioè, capite? Tu devi venire all'Aus anche perché potresti essere uno spadaccino del futuro e non lo sai. E stai lì a farti la tua maratona di film di Woody Allen da solo. Invece dovresti stare qua con noi a guardare un film e rilassarti. Che poi come film era anche molto bello. Fantastici, tutti fantastici. E poi, ragazzi, in questa settimana finalmente l'Aus apre come club, ci sarà la registrazione. Quindi la settimana prossima birra, popcorn, eccetera, a valanghe, a palate, perché perfetto. Comunque sarà anche un modo per poter contribuire alle attività, per poterle, diciamo così, sovvenzionare in maniera simpatica e quindi stare assieme. Il Bach.it adesso, e tra poco, dopo un piccolo spazio musicale, ritorniamo con un ospite straordinario. She's got a secret in her room, just a little something that the sea makes her do, just a thing that lovers do. She looks just like another lady monk, but underneath she's happy, 'cause she just don't give a oxygen, feeding off the residue, memories of a picture boom, doing things that lovers do, dressing up and teasing. Bessie whispers, please just come up here and see me, makes me uneasy. Bessie's got devices in her room, just a little something that can make her dreams come true. oxygen, feeding off the residue, memories of a bit to blue, doing things that lovers do, dressing up in season. Bessie whispers, please just come up here and see me, makes me uneasy. Ragazzi, la cena dei regini, abbiamo un ospite eccezionale questa settimana, abbiamo registrato con loro una intervista alla fine del loro concerto che hanno tenuto qua a Laus, è stata una serata incredibilmente bella perché comunque è una musica particolare che neanche noi sappiamo definire esattamente e neanche loro hanno potuto definire alla fine di questa intervista, quindi adesso ce li vediamo assieme l'intervistina che abbiamo registrato con i Maybe I Am ed ecco a voi il contributo video, vai con l'RBM. Siamo in compagnia dei Maybe I Am. Ciao. Questo gruppo che si è venuti a trovare per fare un concertino, farsi sentire un attimo qua a Laus, al quale facciamo due brevissime domande. Innanzitutto una presentazione del gruppo, chi sono i Maybe I Am e come potete descrivere la vostra musica, che è molto particolare. Sì, allora noi abbiamo, siamo noi due, io Nando e lui Antonio, siamo un duo chitarra, batteria, voce. La nostra musica, diciamo, non amiamo molto descriverla, nel senso che viene da un percorso molto, diciamo, particolare, con molte influenze, però diciamo grosso modo possiamo dire che siamo partiti da una matrice blues per diciamo inserire poi degli elementi afro e punk, diciamo. Quindi una bella mescolanza. Diamo subito un riferimento internet a chi vi vuole cercare sul web. Dove sì, abbiamo il nostro, la nostra pagina Facebook, basta cercare MVIM, dove quindi pubblichiamo a mano le date, e poi su Bandcamp, dove potete ascoltare i nostri dischi, quindi anche lì basta mettere su Google MVIM Bandcamp e trovate la pagina. Esce tutto. Siete usciti da poco con un album nuovo. Sì, ne vogliamo parlare? Esatto, sì, l'album è uscito il 15 marzo su etichetta Gestrae Records, è il nostro terzo disco, è, diciamo sì, è quello fino ad ora più che si spinge più in territori più punk, diciamo, nel senso è, abbiamo un po' abbandonato la matrice delta blues degli esordi per mischiare un po' più di, con l'afro e con il punk. È un disco un po' che ruota attorno alla religione, diciamo, non come movimento di massa, ma come, diciamo, tensione dell'individuo singolo, insomma. E il nome, il titolo del disco, da dove l'avete? Sì, Bokeman praticamente è un termine creolo, praticamente è il nome del posto in cui nel 1974 avvenne praticamente questa assemblea di schiavi a Santo Domingo, praticamente, che è stata un'assemblea officiata con un rituale voodoo anche, che poi ha dato inizio alla rivolta degli schiavi, che ha reso poi Santo Domingo la prima repubblica totalmente nera, indipendente, diciamo. È stata una rivoluzione partita, la prima partita totalmente al basso, diciamo, della storia. Quindi un'idea di rinascita e di rivoluzione di questa idea di che parte dal basso, svolto dal basso, una bello. Classe che comanda. Bello questa cosa. Adesso siete in tour già da un po' di tempo, avete visitato un po' di posti, dopo questo tour che adesso continuerà, altri progetti, pensate ad altre date, l'estate? Sì, abbiamo in giro oppure? Sì, abbiamo un po' di altre date per l'estate, principalmente festival, appuntamenti estivi, insomma, e poi per niente, pensavamo di provare almeno a organizzare qualcosa per l'autunno, diciamo, fuori in azione, quindi magari fare qualche data in Europa. Mm-hmm. E questo, niente, magari iniziare a lavorare sul nuovo disco, insomma. Certo, già qualche idea raccolta. Ragazzi, una domanda fondamentale qui alla Cena dei Regini è: i Maybe I Am sindaci per un giorno di una città italiana? Domanda particolare, perché comunque condividiamo un Sud Italia un po', diciamo, particolare di questi tempi. Quali sarebbero le prime, i primi provvedimenti da fare, da attuare subito? Domanda rischiosa. Io mi dimetto. Il primo provvedimento, e non lo dico per scherzare, vabbè, diciamo che io non credo molto nella rappresentanza, quindi nella democrazia, nell'istituzione che rappresenta qualcun altro, diciamo. Quindi non credo nelle figure istituzionali, nei sindaci, nei comuni, eccetera, eccetera. Credo nelle autogestioni delle comunità, nelle assemblee partecipative, vale, eccetera, eccetera, ma non. Quindi io mi dimetterei. Direttamente lasciate spazio. Direttamente, vediamoci tutti e vediamo cosa fare. Le grandi assemblee, questa idea, esatto, molto popolare. Ragazzi, loro erano i Maybe I Am, cercate sul web, venite a trovare. Noi torniamo subito alla Cena dei Regini dopo un piccolo spazio musicale. Woo! All I need is a cam to record it for you, show you what I'm talking about. You know I had to make this song right here. You know I had to make you girl. Why complain about the cold when we got the most beautiful ladies from all over the globe? This song is dedicated to all of y'all, whether you were black or white, short or tall, brunette or blonde, slim or thick, stressed or calm. But I'm not talking about those with a bad attitude, wearing hoochie clothes, don't know how to talk, act like a man and spit when they walk. I'm talking about the classic types with a proper outfit when the smile is like God sent down announcements for all men to behave. Funny see 10 men get straight right away. Our ladies, all it takes to get some order up in the place. When the sky's dim, she put a smile on your face. I've been all around the world and seen a lot of faces, but there is no place like Sweden and Swedish ladies. I got nothing but love for you. I've been all around the world and seen a lot of faces, but there is no place like Sweden and Swedish ladies. I got nothing but love for you. Nothing is better than summertime. Chill downtown with some friends of mine, drinking soda, admiring all the ladies at the bus stop right in front of us, waiting, giggling, playing with the hair. And with no day away, that was there. It's kinda cute though, with the innocent look when they know we're checking out the culo. Sweet top, tight jeans, high heels and a matching bag. All it takes for me to start a act. I love it when they're playing hard to cash. Won't even give out the number to the start a rap. Says no, with a twinkle in the eye, I won't lay low. I've been singing for a while, smiling to my camcorder, so I can't show them what I mean from Rome to California. I've been all around the world and seen a lot of faces, but there is no place like Sweden and Swedish ladies. I got nothing but love for you. I've been all around the world and seen a lot of faces, but there is no place like Sweden and Swedish ladies. I got love for you. Favorite spot is the shopping mall, buying ice cream, turning my iPod on, kicking back, observing nice things. Every other minute it's like being hit by lightning. It's a beautiful sight. So I have happy girls to the left, in the front, to the right. Nothing makes them feel better than having cheddar to spend. Walking out the store with two bags in each hand. Damn, girls, what the names be? Lisa, Maria, Stephanie, pose for my cam before you're leaving. I'm on a mission to show the world girls from Sweden are the most delicious. Of that, they give no reason for people to be suspicious. Why you want it? Blow some kisses. We got the finest ones, now I got the whole world as my witness. I've been all around the world and seen a lot of faces, but there is no place like Sweden and Swedish ladies. I got nothing but love for you. I've been all around the world and seen a lot of faces, but there is no place like Sweden and Swedish ladies. I got love for you. That's right, y'all. That's right. To all your fellas, next time you step outside, just take a look around, then you understand what I'm talking about. Hey girls, let's roll. Ragazzi, la cena dei regini, questa puntata continua, bella, frizzante, ci piace quando è così, quando c'è questa bella atmosfera frizzantella a tavola, ma soprattutto adesso lo spazio immancabile, imperdibile, come farne a meno, dicono tanti nel mondo, dello spazio delle notizie alla strada, ovvero le notizie che più strane, più particolari, quelle che non hai mai il tempo di andarti a cercare sul web, lo facciamo noi e le commentiamo per chi è a casa. Quindi rilassati, c'è la chiocciolabacco.it se le vuoi commentare assieme a noi, e iniziamo la notizia da un test alla quale ovviamente poi sottoporrò a tutti loro che ancora non lo sanno. Spesso ci si chiede se si è sexy, se si è belli o non belli. Ma io lo so già di essere. Cioè, ecco appunto, per avere un giudizio un po' più obiettivo di voi stessi, ma non scientifico, c'è il cosiddetto test del dito, che detto così suona anche male. Perché, come ragazzi, facciamo tutti, si prende un dito, avete tutti un dito a disposizione, e si mette qua, così. Back to the pallina. Se tocca la bocca, siete sexy. Se non tocca la bocca... non lo so, fai ingrassare il dito. Avete fatto 5 secondi di silenzio e basta. Questo è un test che sta spopolando sul web, su Instagram e sui social network, perché secondo me non in un funziona. Minuto ragazzi tutti lei ci siamo, lei c'è. Poi maschietti sono più ritrosi. Ma una domanda, ma perché il naso come me è bello? Vedi, è perché è il naso che Cyrano de Bergerac insegna, che non dà la sensualità, e quindi bisogna lavorarci un po' sì, un pochino sopra. Ma ragazzi, andiamo avanti, perché comunque le notizie sono veramente incredibili questa settimana. Ad esempio, quella di questa Maria, 20 anni, non indossa i pantaloni, ma va in giro lo stesso, in giro per una città della Francia. Era un esperimento di un artista francese che ha disegnato sulle gambe di Maria il disegno col body painting di un paio di jeans, e questa ragazza di 20 anni se n'è andata in giro in mutande liberamente per le strade della Francia. Cosa ridi? Ragazzi, noi non ho, perché non potrebbe succedere a Reggio? Scusate, non la vedete una cosa così? Cioè. Ah, letta, ma non visto. Vista, non se ne è accorto nessuno. Cioè, effettivamente, stare lì magari te ne accorgeresti. Ma poi anche se te ne accorgi, cioè anche se te ne accorgi, vedi una ragazza che gli dice, scusa, ma sei vestita col body painting? Ma io lo dico. Stamattina tutto a posto, si è vestita leggera apposta. No, poi le notizie dicono tutte, non se ne è accorto nessuno, però in tutte le foto c'è un sacco di gente che si gira a guardarlo. Perché voglio dire, evidentemente lei. Appunto, forse. Ha fatto il test del dito ed è uscito. Era semplicemente questo, perché comunque il test del dito per lei funzionava, quindi ha provato col resto del corpo, evidentemente funziona. Quindi la discrezione francese funziona, cioè voglio dire, anche a Reggio aspettiamo donne in giro in body painting. Io lo so. Gli uomini è difficile perché c'è il pelo delle gambe. Sì, per il pelo. Cioè, ragazzi, ok, facciamo prova. Depiliamo Andrea con la ceretta, no. E lo facciamo. Va bene così, andiamo avanti, basta che poi mi si fissano sulle notizie e non si va mai avanti. E invece c'è una notizia importante da dare, importante. Quanti ragazzi in cerca di lavoro, quanti problemi nel trovare lavoro, e in Inghilterra addirittura c'è chi ti paga per ubriacarti. Ci sto! Dai, andiamo Andrea! Quando andiamo possiamo provare a trovare come la primo lavoro. Pensateci, io vi do già un contatto, perché questo tizio in Inghilterra ha deciso di pagare qualcuno per uscire col padre anziano che ogni sera va al pub a ubriacarsi. Quindi tu che fai? Ti prendi il vecchietto, lo porti al pub e ti fa ubriacare con lui alla modica, per il modico, vada, paga pure. Poi lo dovresti riportare a casa, cioè. Ma è gestibile, è gestibile secondo me. Salario di 7 sterline, per quindi comunque è, la birra è a spese del, dell'anziano, e quindi comunque tu devi solo portarlo al pub, farlo bere e poi lo... Il posto attualmente è andato a un certo Mike Hammond, che tra l'altro è un ex ufficiale dell'esercito e medico, quindi si vede che hanno unito le cose in caso di emergenza, emergenza se il vecchietto esagera, già, già il medico è pronto a accudirlo, insomma, stagli accanto. Quindi chi vuole fare questo lavoro di vantaggio? Siete contenti? Allora, ragazzi, tu che sei a casa e hai un'azienda di accompagnatore per anziani, ovvio, come si dice, per anziani con un certo tasso alcolico, sai che qua c'è un hummus pronto. Troppo sangue nell'alcol. Poi con noi si risparmia, perché bastano due botte di Amaro del Capo e il ragazzo è a terra, quindi possiamo anche andare avanti così. Per un ruolo che si definisce, un altro si svela. Ragazzi, momento del mistero, tutti per anni abbiamo vissuto con l'immagine del Bigfoot. Il Bigfoot, sì. Esiste, no? Sì. Il Sasquatch. Ma quale esiste? Quale esiste? Secondo me esiste. Ma capire, ci sono tante persone che credono nella sua esistenza. Adesso sì, adesso sì, perché un alpinista in visita in Canada, perché un alpinista deve andare in Canada? Vabbè, così è bello il Canada, se sei un alpinista e vai in Canada, vabbè, già questo mi puzza, già questo secondo me avrebbe girato questo video disponibile su YouTube nel quale ha immortalato il Bigfoot. Il Bigfoot che gli camminava davanti anche nella neve alta, e c'è questo personaggio di quasi 2 metri con tanto di pellicciotto alla ciubecca, che comunque lo guarda. E quindi, ragazzi, sarà vero? Lei sì, ci crede? Sì, sì. E voi? Personalmente... Vabbè, dai, dobbiamo dire la verità, ormai sono troppo tempo. Sì, ero andato in Canada qualche giorno fa e mi hanno scambiato del Bigfoot. No, ragazzi, panda. E ti fai beccare dall'alpinista. E mi hanno pagato per farlo. Una panda. Dovevi farlo alla cena. Quante visualizzazioni. Vero? Cioè. La prossima. Non dovevi svelarlo. E andrei in piedi. Ma se non ti tagli i capelli per 2 mesi, in quel modo, sai. Se vuoi metti da farti la ceretta. Fa male. Santo, santo cielo. Ma che persone frequento. Vabbè, comunque. Ragazzi, adesso invece è un momento serio, bello, anche un po' commovente, perché comunque racconta una storia vera, triste, però con un certo lieto fine. Lei si chiama Tori Biddle, abita a Los Angeles ed è una ragazza ormai 19 anni che è nata senza un braccio. Ha avuto da sempre il sogno, come dice lei, di poter abbracciare suo padre, però non le è stato ovviamente mai possibile, finché una raccolta fondi su internet, seguendo comunque i vari social network, eccetera, hanno raccolto abbastanza soldi per poter regalare a Tori un braccio, una protesi meccanica, che le ha permesso la settimana scorsa di riabbracciare il padre. Quanto è bella questa storia! Beh, è molto bella. E basta, cioè, ragazzi, così che inizio il tuo sex. Ragazzi, emozionatevi di più, panda. Tu che sei un mimo, ti metti di così. Non c'è, io vi propongo. Non c'è empatia, ragazzi. No, comunque. Io la trovo una storia fantastica. Perché una volta tanto il web serve a fare qualcosa di questo tipo per realizzare i sogni di questa ragazza. Perché voglio dire. Sì, alla fine non è come quello che hanno, come quella coppia che ha chiesto al web di scegliere il nome della figlia che poi l'ha chiamato. Questo è molto più... No, panda, non mi devi ricordare quella notizia, perché ancora ci sono rimasto male, perché il web aveva dimostrato tutta l'onestà e la... Che intelligenza, ti metti in ballo, balla, cioè, hai chiesto questa e poi voglio dire, la ragazzina chiamamela Cthulhu, cioè non è un nome impegnativo. C'era stato un brainstorming. Cioè, che ci fa? Un attimo. Forse perché è difficile da scrivere. No, alla fine è tanto. Devi ricordarti che ct... il secondo nome è difficile. Vabbè, basta, panda, okay. Non riaprire vecchie ferite con le notizie. Non riaprire vecchie ferite. Ragazzi, invece una scoperta ulteriormente importante, anche questa molto bella, si chiama Guardian Angel. Quante volte è capitato, soprattutto alle ragazze, di uscire con un qualcuno che poi si è dimostrato un po' scomodello, cioè un po'... Allora tu che fai in quelle occasioni un po' difficili da gestire, c'è questa collana che permette di, con un semplice bottoncino, di non lo fare che ti chiamo il Guardian Angel. Ti permette di premerlo e questa applicazione contenuta nel ciondolo fa dei numeri scelti da te mandando gli sms di avviso, oppure ti simula una chiamata sul tuo cellulare. Quindi io sono un caffè con Andrea che ne so, mi rompe le scatole perché mi parla per due ore di giochi di ruolo, manca una cosa secondi, che ad esempio a me non va, e io improvvisamente così discretamente premo il mio guardian angel. Ah, mi suona il cellulare, scusa, pronto cara, sì, è pronta la cena, ok, arrivo subito. E lui mi dice: ma non sei sposato? Allora c'è il piano 2, io premo il mio bottoncino e mando 10 sms a 10 amici che se ne fregano di me perché se la fatti loro, e quindi no, però è un'invenzione veramente simpatica per proteggere soprattutto le ragazze in questi momenti un po' difficili. Però quanto è triste il fatto che ci vuole una collanina per proteggere le donne. Io so soltanto che una volta io ho inviato un messaggio: chiamami o fammi uno squillo prolungato che finge una telefonata. Vedi? Proprio perché ero in una situazione. Hai usato anche tu questo? Sì. Io l'ho usato, però in passato. Tutti. L'ho usato anch'io. No, è vero. Io ero di quello sopra. Scusa, ma tu non sei insieme. Io ero di quello sopra. Avevo registrato mio padre che diceva le frasi che gli avevo scritto, simulava di essere un poliziotto e che io gli stessi facendo una denuncia. Cioè, ogni volta che qualcuno mi rompeva le scatole, perché chiamavo, facevo finta di mettere viva voce, poi mettevo la registrazione e adesso le svela da tutto. A boh, ce la mi spiace, la prossima volta, altrimenti parliamo. Affitta tuo padre per questo servizio di Guardian Angel diretto. E quindi, ragazzi, non si smette mai di stupirci la tecnologia. Soprattutto abbiamo spesso parlato di Facebook e della possibilità un po' a volte pericolosa di condividere delle cose con gli altri. In particolare c'è un fiorire di piccoli programmini che si attaccano al faccialibro per permettere ulteriormente alla gente di farsi i fatti suoi, e quindi ne sono nati diversi nel corso degli anni. Uno sicuramente che svetta sugli altri è stato inventato nel 2009 da un professore di Harvard, tra l'altro, caspita. E praticamente questo programmino tu lo metti sul tuo faccialibro e localizza immediatamente tutte le foto di ragazze in bikini che hai nei tuoi contatti. Quindi tu sei là, cioè hai 200 contatti, 400 contatti, premi là e ti vedi subito, che ne so, le ragazze che hai tra i contatti in bikini. Come si chiama? Questo è un professore di Harvard. Ed è un professore di Harvard, ragazzi. Giusto, non si vede tempo. Santo cielo. Scommetto che ha un sacco di salone su Facebook. Le avranno tolte tutte, dico. Oppure ancora c'è il cosiddetto breakup notifier. Cioè ti manda un messaggino quando un contatto che ti interessa si sfidanza, diciamo, si lascia con la fidanzata. Quindi pensa tu, Dio mio, tu sei ti stai prendendo un caffè con Andrea, tipo gli stai parlando di giochi di ruolo, e tu arriva il messaggino: tizia X si è lasciata. Andrea, no. Scusa. Cioè, il tempo in tempo reale è molto regina questa cosa, però è assurda. E poi ci sono un sacco di queste applicazioni assolutamente incredibili che ovviamente vanno a calcolare a seconda dei tuoi contatti quando ti potrai sposare, fanno tutti questi calcoli statistici. Beh, questi sono i giochetti che c'erano già il tempo fa sulle cose, vedi, diciamo, tipo come morirai sbranato, sì, dai cani. Quando morirai. Vabbè, se voleste un contenuto che vi interessa particolarmente sul faccialibro, quale potrebbe essere? Nessuno. No, film. No, no. quello sta guardando questa cosa. Bello. C'è già. Bello. La chat della cena. C'è anche la pagina della cena, quindi voglio dire, si può fare. Poi è tipo un'applicazione che dice: tizio sta guardando io e Danny di Woody Allen, ad esempio, e tu vai. Oggi si mi gira così. Oppure il messaggino. Oppure Andrea si è fatto male. E vedi che ogni 2 secondi arriva la lista. Selezione secondo il campione. Per vedere quelli a cui ammogliarti il prima possibile. Molto sentimentalmente. Ragazzi, ultima notizia, bollino rosso, perché questa è la notizia più piccante. Questo è l'angolo un po' più così, in cui i ragazzini vengono mandati a letto, così in maniera che si può parlare più tranquillamente. Quindi relax. Lei si chiama Anase Hai ed è una pornostar giapponese. La particolare di, la particolarità di Anase Hai è che ha fatto una serie di interventi. Non spoilerare le notizie. Aspetta che le... Ha fatto una serie di interventi chirurgici per assomigliare a un elfo di Harry Potter di nome Dobby. Perché furbata? Perché sì. Cioè, Dobby doveva tornare in vita. Perché Dobby è un elfo libero. Cioè, sei una pornostar giapponese e vuoi assomigliare all'elfo di Harry Potter? Sì. Perché? Perché Dobby. Sempre certo. Io immagino, questo è durante uno dei suoi filmini, si stanno spogliando e lanciano un calzino addosso e lei fa: ah, Dobby è un elfo libero! E scappa dall'istruzione. Alla finestra. L'elfo Dobby, piccolo aiutante di Babbo Natale, sarebbe il prossimo film. Ragazzi, un intervento che fareste per migliorare il vostro corpo? Qualcosa che cambiereste? No. Subito. Patrizio? Io sono sexy, quindi ormai non... Io sono a posto pure. Sì. sono tutti perfetti, sono ragazzi. No, io l'ho detto, è un trapianto di capelli. Le gambe. Un po' dei miei. No, guarda. No, io sui casi mi aggiungerei 5 centimetri, 5-6 centimetri. E quello in Cina. Beh, questa è l'altezza, sì. Si può lavorare, ragazzi. Cena che c'è back.it per commentare queste notizie e scrivere magari cosa cambiereste voi del vostro aspetto fisico, perché tutti comunque più o meno, a parte alla cena che sono tutti dei narcisisti, hanno un qualcosa che vorrebbero cambiare. Fatemi sapere se voi volete, anche voi volete assomigliare a Dobby nel fotomedico o grande personaggio di Harry Potter. Ma magari c'è questa piccola perversione dell'elfo, magari andrà tantissimo nei prossimi anni. Ragazzi, noi torniamo dopo un piccolo spazio musicale. in life, I will always abuse the finest things in life, I will always refuse the worst things in life, I will always abuse the finest things in life, I will always refuse the worst things in life, I will always abuse the finest things in life, I will always refuse the worst things in life, I will always abuse the finest things in life. Ragazzi, la cena dei regini, l'altro angolo cult di questa trasmissione, richiesto ovviamente anche in Thailandia, stanno copiando. Le cateringhe italiane. Barukasiata, si chiama il programma che stanno realizzando là, dove ovviamente una splendida donna thailandese prende le mie... il mio posto e introduce una classifica. Ok, posso vedere quello? Sì, no. Questo significa la cena degli ugandini. Sì, certo, ovviamente bisogna localizzarlo. No, ovviamente no, perché la cena è l'unica trasmissione regina del pianeta Terra, ricordiamo. Assolutamente. Siamo unici. Cena@back.it, commenta questa puntata, il back.it per ascoltare anche quelle precedenti. Comunque vedere cosa stiamo facendo, perché va in onda sia su Radio Abba Wall il giovedì che nei fine settimana su YouTube. Ma adesso tu che stai cercando lavoro, ti diamo 10 cose preziose che non possono mancare nel tuo curriculum, perché si sa, il lavoro, abbiamo detto prima, è un problema, un discorso che bisogna affrontare, è molto particolare. Il fatto di affittare una persona e vado a bere con il proprio padre, quindi se non siete stati ingaggiati per andare a bere con un vecchietto potete fare queste 10 annotazioni piccolissime che non mancano anche nel suo curriculum, che andremo a bruciare alla fine di questa puntata. La numero 10, perché la patente europea per i computer. Non si è mai capito esattamente a cosa serve, perché subito dopo essere entrata in vigore, poi alla fine è diventata, come si vuol dire, carne di porco, come diciamo da noi. E quindi a che serve? Mettetela però, mettetela, perché nella prima, la prima voce di tutto è sempre c'è giusto, se ce l'hai però. Se ci manchi di non ce l'hai. Le persone non vanno a controllare. Andate tranquilli. Panda, non hai capito il tenore di questa classifica. Se io qua ti dico metti la patente europea, metti la patente europea. Poi se non sei neanche accendono il computer, tranquillo. Quindi questa l'avete tutti, cioè avete ora tutti sì. La patente europea. Ora sì, adesso sì. Ce l'avete, sì, tranquillo. Adesso... io ce l'ho americana. Sì, sì, puoi circolare. Alla numero 9, corsi sconosciuti spacciati come lauree. Cioè, hai fatto il corso di ornitologia, ma tu devi mettere Course of Ornithology in Aspromonte City. Allora sì, ottiene molto più di tanto. Certo, allora cioè devi valorizzarlo. Poi voglio dire, anche l'ornitologia, la conoscenza della natura, vuoi identificare degli ornitorinchi? Ovvio, devi comunque valorizzarti rispetto al grande capo che ti va ad assumere. Pure laurea in GDL. Buttato, non sai cosa può essere di tutto, non lo possono sapere. Offrite una birra a questa donna. Laurea in GDL, ragazzi. Lo vedi cos'è il genio artistico della cena? Continua. Anche questo al momento, l'idea geniale. Se tu giochi con l'ARS, ASLPG.com, lo scarichi e puoi aggiungere laurea in GDL. Io stasera quando torno mi metto nel mio curriculum. Mi sono per l'attestato. L'attestato. Se nessuno ti chiede che cosa vuol dire? Perché se ti metti puntato, tu lo metti puntato, sembra una cosa importante. Certo, quel GDD. Tanto ARS, perché è puntato, quindi ci sta. Anche se ARS glielo scrivi completamente in inglese, tanto qua. Quelli che parlano inglese sono da mette poi. Okay. Loro mando. Ragazzi, alla numero 8, fondamentale, questo importantissimo, accessibile veramente a tutti e neanche tanto illegale. I tuoi hobby piazzati come specializzazioni sotto la voce note personali. Allora, la voce note personali è quel limbo. abbiamo le prime note personali nel curriculum. È quel limbo artistico in cui tu metti tutte le cose, cioè dai libero sfogo, sono i 10 minuti di celebrità all'interno del tuo curriculum. Quindi mettere ad esempio le lezioni di piano che ti hanno fatto fare alle medie, le metti là, perché è importante. Cioè, voglio dire, hai fatto un corso di flamenco, metti il corso di flamenco, metti, non lo so, costruzione di armamentario in materiali diversi dal ferro, oppure anche costruzione materiali di alternativi. Armi per GRV, metti l'armi per GRV, magari ti presenti con una spada finta al colloquio. Di scrittore di opere artistiche e poi sotto le esperienze lavorative. Cioè, come? L'altro lo compi sulle esperienze lavorative. Ah, vedi come già siamo andati. Siamo andati avanti. Un attimo di materassina. Oppure metti le archi dell'ARS, creare oggetto. Fantastico. Usare copione del 70%. Creare il curriculum diviso in corpo del stress. Creare arma. Crea un'arma. Ragazzi, è semplicissimo, prendete un foglio, dividete in tre, corpo, destrezza, mente, sotto, e tu glielo dai al capo, alle tue cose. Peccato che, lo sappiamo, nei giochi di ruolo le spade sono il fondamento e nella vita reale non funziona nulla, però quello là è un altro discorso. Alla numero 7 già vi stiamo dando un'infarinatura generale per essere matematicamente accettati. Ovviamente. In tutti i contesti lavorativi possibili, anche la NASA, questo è tutto. Alla numero 7, questo è importante, a questo punto guardiamo anche un attimo l'estetica del curriculum. Contatti che ispirino autorità, cioè ad esempio evitiamo quei contatti, ad esempio Sexy Girl 95 chiocciola Hotmail, oppure Son Goku 19 chiocciola eccetera, no, fai un indirizzo email più, ad esempio Fear of the Darkness chiocciola Hotmail, no, oppure Down with the sickness, no. Gimella può andare bene. Gimella. E il mio nome e cognome? Questo ispira autorità se hai già, ad esempio, sì, oppure Ammiraglio De Santis, così è, anche se sei un semplice impiegato può funzionare. Oppure un nome De Santis. Il Bat. No, il Bat. Spacciati per il Bat. Il Bat con il chiocciola ilbac.it. Per la egocentrismo, per la pura, direi un nome mio è Ruggero Deodato, il cognome la guerriera devi beccare il datore di lavoro che si esalta su queste cose. Ragazzi, al numero 6 abbiamo detto cosa esporre, ma ci sono anche cose che è meglio evitare. Ci sono cose su cui è meglio tacere, ad esempio patenti ritirate, tessere di partito, un po' così, lasciamole stare, glissiamo, non è inutile mettere tutto, cioè voglio dire, una cosa... Se vedi tu, non dirlo! Quel piccolo satanismo che c'è in te, magari potrebbe essere non capito, lascia stare, cioè... Il circolo, non lo so, dai. Bambini di Satana. Perché okay, si vede che sei iscritto da giovane. Libero. A questo punto, se ci sono le bestie, tu fai i cuccioli di Satana. Taliban fan. Scrivo la Jazeera. C'è di tutto, ragazzi, alla numero 5, quindi metà classifica, già delle zone un po' tagliate, abbastanza in particolari, la piccola inventiva. La piccola inventiva è quando, senza eccedere, tu ti scrivi quei piccoli corsi che, diciamo, che non è che proprio hai seguito bene. Ad esempio, non sei stato un grande volontario del WWF, però lo puoi mettere. Oppure il corso di marketing c'è, cioè in qualsiasi facoltà universitaria ormai della storia, cioè tu vai anche veterinaria, c'è, cioè corso di marketing eccetera, mettilo, tanto dai, un corso a volume che hai fatto in più, magari ti sei iscritto, hai iscritto la De Agostini per avere Esplorando il Corpo Umano, metti pure la cartolina di Vai tranquillo. Oh, può dire che conosce in anatomia perché ha visto Esplorando il corpo perché, umano. Perché assolutamente sì, cioè, ho visto Esplorando il corpo umano e ho anche costruito il modellino e lo porti come... No, io non l'ho mai finito. Come tutti. Quindi anche in archeologia. Come professore di chirurgia dove aver giocato all'Lego chirurgo, certo, secondo me trovi il posto. Io anche lavoravo per marketing, ma poi ho fatto loro causa. Quindi queste sono le cose da nascondere. Io ho vinto un primo piano a Silaus con un foto di San Francesco. Da nascondere. Andiamo no, su San Paolo. È bello, sì. Nascondiamo. Religione, politica, bisogna un attimo levigare il curriculum su questa cosa. Alla numero 4, ragazzi, non vi preoccupate, sappiamo che il voto cos'è alla fine, è un numero, quindi si può. Un piccolo voto taroccato. piccolo voto taroccato, cioè, quanto puoi aggiungere? 1-2 punti? Dai, sì, va bene. 1, 2, 3, 10. Un piccolo voto taroccato, perché alla fine, ma sappiamo perché. Perché nessuno controllerà mai. Lui già è preparatissimo, attenzione che no. Ma fino a qua mi vai, ci sono tutte cose fattibili. Fino a qua vedi che sono, cioè, questi consigli. Sì. Piccolo voto taroccato perché c'è una questione filosofica. L'uomo non è un numero, non lo puoi bloccare in un numero, cioè, quindi perché essere fiscali su queste cose? Ma che mai? Aggiungiamo, cioè, sei due, può diventare un 8-2. Ma sì, poi sai, ho sbagliato, scrivevo veloce. Invece ti ho premuto l'8. Quindi può essere tutto un attimo rivisto su queste cose. Mi raccomando, silenzio, non abbiamo detto nulla. Ma alla numero 3. Questa è una regola d'oro, penso in tutta Italia soprattutto, sinonimi inglesi per fare valere di più i tuoi lavoretti inutili, ovvero, come abbiamo detto prima, sei stato, che ne so, che hai fatto nella tua vita, l'usciere, si può scrivere Exeter, oppure hai fatto il bagnino, puoi scrivere Baywatch. Ci sono i lavapiatti, aiuto cucina, c'è chi c'è un po', specialista in cucina, però quindi ragazzi, scritto in inglese suona sempre meglio, soprattutto in Italia comunque. Ma stiamo tradurlo. Ma poi ti dicono ad esempio, ne so, Baywatch, caspita, chissà che cos'è, ho pure visto un film su questa cosa, lo assumo. Quindi scrivete tutto in inglese, magari anche il vostro nome in inglese. Mi chiami Andrea Festa, Andrew Party. Oggi a mio zio arriva, mio zio si chiama Santo Campolo, gli è arrivato un pacco a nome di Oli Campolo. Io sto morendo. Vedi, è qualcuno che si è fatto fare, è stato assunto. Nel periodo mussoliniano, quando ci fu il famoso concerto di Louis Armstrong, le varie locandine, manifesti, lo riportarono come Luigi Braccio Porto. Sì, perché c'era questa... Solo per rabbrividire. Sì, sono da Luigi Braccio Porto. Non è per una bellissima pubblicità Luigi Braccio Porto. Suona anche in maniera un po' analoga, ma comunque ragazzi, alla numero 2, fondamentale, ormai siamo nel gotha, proprio in quelle cose che non puoi fare sfuggire al tuo curriculum, alla numero 2 mi raccomando, la foto in cui sei uscito bene, metti sempre solo quella, aggiungo io, attento a dove ti taggano su Facebook eccetera, perché altrimenti tu metti la foto figa, quello va a vedere il profilo, come è capitato a diversi miei amici, cioè la foto figa è così e poi sotto ha sfasciato di birra, taggato sotto... Mi raccomando, attenzione a curare l'immagine fotografica. Ma io sono ancora con le foto di quando ero 15 anni. Perché per evitare... Perché è l'unica che è uscita bene tutta la vita. Io ho un'amica che si è fatta una foto di una festa, una selfie tra l'altro, così, tutto a me. E l'ho usata come foto per la carta d'identità. Bello. E io non ho lasciato fare, tra l'altro. Bello, bello, vedi, perché la modernità, questi giovani che stanno invadendo il mondo, è possibile anche farsi le selfie. mi vestivo da Batman e mi facevo questa cosa. No. Ciao! Ciao poliziotto, sono io nella foto. Curriculum, esperienza lavorativa professionale nella città di moda. Caspita. Metti vigilante. Esatto. Perché non ci ho pensato prima? Vabbè, ragazzi, alla numero uno fondamentale. È fondamentale. È tutto quello che proprio non potete fare sfuggire al vostro curriculum. La cosa su cui poter giocare di più sono le lingue. Le lingue. Partire da italiano, vabbè. Inglese, fondamentale. Francese, fa figo. Tedesco, è ottimistico. E poi, soprattutto, ragazzi, vanno moltissimo in questo periodo, perché è come la moda, capisci? Ovviamente. Vanno moltissimo lingue asiatiche e arabe. Mettetele dentro subito nel vostro curriculum, non importa se lo sapete, perché si sa. A due. A tre, colpito affondato. Magari tu dici nel curriculum, ma so parlare inglese, poi se ti chiedono, ma lo parli bene, gli rispondi so, e poi ti lanciano addosso le scarpe. Allora, la lingua è quella su cui puoi giocare di più, perché soprattutto l'arabo, ad esempio, chissà cosa vuol dire ciao in arabo. Come si dice? Salam alaikum. Dai, perché io ho beccato che sapevano l'arabo e sono venuti alla cena, ma questo è un altro discorso. Questo è forse soltanto quello, allora ti mettono il telefono, tu rispondi, salam alaikum. Poi fai finta di capire qualcosa e cominci a gridargli in faccia, poi gli chiudi in faccia e gli dici no, si è comportato malissimo. Ragazzi, 10 cose da sapere, aggiungetele stasera stessa al vostro curriculum. Assolutamente. C'è la chioccia del bacco.it per commentare queste cose. Magari avete usato qualche sporco mezzuccio anche voi, e io, garantendovi l'anonimato, ne parlerò alla prossima cena, perché è giusto condividere così questi mezzucci. Ragazzi, vi ho detto garantendo l'anonimato, ma quello che succede alla cena rimane alla cena. A parte, le visualizzazioni su YouTube, che devono aumentare ovviamente, per questo qualcuno di loro alla fine di questa puntata verrà ucciso e lo potrete trovare nel prossimo video di YouTube. Ragazzi, questa era la cena delle regine anche questa settimana, seguiteci sul back.it, settimana prossima ancora assieme. Un saluto dal back e dai ragazzi della cena delle regine, un applauso a tutti. Fantastico, un programma amato da me e dal mio medico per tutto quello che sto mangiando. Ciao Pino, alla settimana prossima, ciao! Ciao! Ciao.